Ah, per ogni rientro dalla pubblicità rimetto la nostra sigla sulla via del teatro on Broadway. Lui è George Benson, come ben sapete, vigilia di weekend 29 settembre. Iniziamo la conversazione in questo caso invece per un'altra sede molto importante e che seguiamo dall'inizio del Breakfast Club con la rubrica In Scena. Vi parlo di Teatri di Vita. La rabbia è la stagione che va da settembre a dicembre. In questo caso appunto restiamo nel 2023, inizio stagione 23-24, è dedicata alla rabbia. Vi ho citato prima Pasolini, la rabbia appunto di Pasolini, un lavoro che comprende 7 spettacoli di teatro e danza e un film. La rabbia di Pasolini appunto che inaugura il programma il 28 settembre. Quella di Pasolini come rabbia del poeta che non si arrende di fronte alle crisi, alle guerre, all'ingiustizia e trova un modo per raccontare tutto, anche con la bellezza, e da qui si sviluppa con questo filo conduttore una stagione che attraversa, oltre che grandi crisi, grandi ingiustizie internazionali come la Palestina al cui Teatri di Vita ha sempre dedicato una grandissima attenzione. Ne parleremo a breve con Stefano Casi, direttore artistico di questa sede molto bella all'interno di questo parco nella parte occidentale del comune di Bologna, oltre che una particolare sede, uno spazio all'aperto che permette motivazione ulteriore di incontro e anche incontri insomma che oltre a essere quanto mai diversificati tra di loro hanno sempre un contenuto molto molto impegnato e alzano l'asticella e ci portano a conoscere nuovi autori e allo stesso tempo autori del passato che restano sempre e comunque. Ci sarà anche in questo caso l'omaggio a Giovanni Testori nel centenario della nascita e nel trentennale della morte con una delle sue opere più intense. In questo caso rende omaggio Teatri di Vita con il lavoro Conversazione con la morte, interpretato da Gaetano Callegaro per la regia di Mino Manni. E infine uno dei capolavori di Herbert Achterbusch che sarà il 10 e il 12 novembre dedicata a una figura femminile in diverse fasi della propria vita proposta da Acroama. Insomma, con Stefano Casi avremo modo di approfondire, grazie alla conversazione che ha avuto in presentazione di stagione con Rachele Copparoni, e quindi sentiamo le parole del direttore artistico di Teatri di Vita. La rabbia è in qualche modo un sentimento che sembra attraversare la società a tutti i livelli. Siamo carichi di rabbia, però abbiamo pensato alla rabbia in una maniera diversa. È un invito a risignificare la rabbia in maniera diversa, partendo da Pasolini, in particolare dal documentario che Pasolini ha realizzato proprio 60 anni fa, che si intitola La rabbia, in cui lui con il suo sguardo, con le sue parole da poeta, legge ciò che gli sta intorno e quindi le grandi crisi internazionali, le guerre, la fame nel mondo, ma anche la politica internazionale, la politica italiana e tanti altri avvenimenti, appunto dai grandi problemi a delle cose più di cronaca come può essere il suicidio di Marilyn Monroe. Allora, da questa idea della rabbia del poeta, che è una rabbia, che è uno sguardo in qualche modo, siamo partiti con questa stagione e con questo invito allo spettatore a osservare queste cose appunto con lo sguardo poetico, che è lo sguardo degli artisti che appunto vengono a Teatri di Vita. Inizieremo con il documentario di Pasolini e quindi sarà un'occasione per rivederlo anche con spezzoni inediti, perché quel a suo tempo fu tagliato e insomma, e poi ci addentreremo in questo viaggio in 7 spettacoli. 2 in particolare fanno riferimento alle grandi crisi internazionali e in questo caso i 2 poli di crisi sono la Palestina e l'Ucraina. Quindi per la Palestina ci sarà uno spettacolo dal titolo Nakba. La Nakba è la catastrofe del popolo palestinese costretto all'espulsione dalle proprie terre nei campi profughi eccetera eccetera. Quindi la Nakba da una parte di Enrico Frattaroli, che è una dei grandi nomi del teatro d'avanguardia degli anni 70 e che abbiamo già ospitato alcuni anni fa a Teatri di Vita. E girl, the way you move your body. Rabbia, il sentimento che divora i nostri tempi, i nostri luoghi di confronto e scambio, i nostri rapporti interpersonali. È una rabbia aggressiva, sorda, che non accetta il dialogo e la comprensione. In questo tempo di rabbia facciamo appello a un'altra rabbia, quella del poeta che osserva la crisi del suo mondo e non tace. Esattamente 60 anni fa, nel 1963, Pierpaolo Pasolini compone un film che unisce cinema, poesia e storia. Un accorato flusso di immagini, parole, additando le ferite del mondo e le sue grazie, portando lo spettatore in mezzo alle guerre e all'odio e suggerendo immagini in risposta di amore e speranza. Oggi ancora è tempo di rabbia, della rabbia del poeta, della rabbia che accusa e che consola. È il filo conduttore di questa prima parte di stagione, da settembre a dicembre, per quanto riguarda Teatri di Vita. Da 7 spettacoli e una proiezione in partenza, l'intervista per approfondimento di contenuti portata da Rachele Copparoni, che ringrazio. Tanti sono gli impegni e non possiamo avere il dono dell'ubiquità, quindi saluto a distanza Stefano Casi, direttore artistico di Teatri di Vita, e procediamo con questo dialogo. Beauty of the Beast, che è uno spettacolo di danza contemporanea del coreografo Anton Ovchinnikov, ucraino appunto, e quindi viene presentato in prima nazionale, e che è un lavoro molto intenso, anche ironico a tratti e molto sottile, sul rapporto tra appunto Beauty of the Beast, la bellezza della bestia. La bestia in questo momento per gli ucraini è ovviamente la Russia, che però ha anche una bellezza, che è la bellezza del balletto classico russo e che è la bellezza della cultura russa. E quindi diciamo questo contrasto tra questa, la grande tradizione di bellezza russa e questo momento di guerra, ecco, su questo interviene il poeta coreografo, e appunto con questo spettacolo che presenteremo in prima nazionale. Poi ci sono altri attraversamenti, altre interpretazioni, c'è Ok Boomer dei Babilonia Teatri, che è un affondo sul rapporto tra consumismo, il nuovo capitalismo, lo sfruttamento del lavoro e così via, ma anche la ripresa del nostro XY XYZ, che è lo spettacolo con una dozzina di giovani che coinvolgono un politico. Ci sono tanti politici di tante formazioni diverse. In questo caso faremo una data con Mattia Santori e poi ci sono altre occasioni di sguardo poetico, appunto con rabbia, ma appunto ripeto con questa rabbia poetica sull'intimità. Quindi Susn di Acroama, che è un racconto di una donna attraverso cinque fasi della sua vita, e poi un omaggio anche ancora a un altro grande che è Giovanni Testori. Quest'anno ricorre il centenario della sua nascita. Di lui presenteremo uno spettacolo molto intenso, che è Conversazione con la morte, in cui lui dialoga in qualche modo con la morte, e che è un dialogo non cupo, non angosciato, è un dialogo molto intenso che tra l'altro coinvolge anche gli spettatori. È uno spettacolo a posti limitati, quindi molto molto molto particolare. Questo diciamo è un'occasione, è davvero un invito in qualche modo a pensare a un altro modo di affrontare le crisi e le situazioni di angoscia, che ovviamente in questo momento in particolare ci pesano molto. Wish I knew why I'm so in love with you. No one in this world will do. Darling, please save your love for me. Run away. If I were wise, I'd run away. Like a fool in love, I stay and pray you'll save your love for me. I can feel it even when you're not here. Can't conceal it. Really love you, my dear. Though I know no good can come from loving you, I can't do a thing. Oh, I'm so in love with you. So darling, help me please. Have mercy on a fool like me. I know I'm lost, but still I plead. Darling, just save your love for me. José James, ho messo su due brani da questo disco per Bronzewood Recording, la label indipendente di Gil Peterson, volutamente perché volevo mettere Save Your Love For Me, che è il brano secondo me più bello di tutto questo LP, e ho iniziato invece con un altro brano altrettanto bello. Ho detto, ma perché uno non può annullare l'altro? E allora ho dedicato la colonna sonora di José James alla presentazione di stagione settembre-dicembre 2023 per Teatri di Vita. Grazie Rachele Copparoni della redazione culturale di Radio Città Fujiko. Grande Jazz sarà invece dalle 11.30 alle 12.30 con doppio appuntamento, esteso con il Torrione, Jazz Club di Ferrara. Poi avremo anche, tra altri suoni e jazz live, la stagione di Angelica. Quindi quello che è una chiusura per quanto riguarda la mattinata in settimana lunedì venerdì sarà in partenza quest'oggi dalle 11.30, per cui la quale altro stacco musicale stacchiamo, adesso lo teniamo solo come base il disco Black Magic di José James, metteremo in conclusione Lady Love di Lou Rawls, altro brano secondo me stupendo, ringraziando per l'accoglienza, per le splendide serate che con Stagione permettendo continueranno al Fondo Comini da Binario 69 ogni giovedì. Quindi vi aspetto, vi aspettiamo, oltre che DJ set, selezione musicale, accoglienza, la possibilità di convivio in uno spazio nella zona bolognina lì all'angolo con via Battiferro, oltre che la bellezza di poter restare all'aperto nonostante le giornate si stiano cominciando ad accorciare, una colonna sonora tra ACI, jazz e rare groove nel DJ set curata da me e a seguire il concerto. Ecco, per il concerto mi raccomando la programmazione è quella di Binario 69, che è anche vicino al Bologna Jazz Festival che è imminente, e anche quello entrerà in Jazz Live per la programmazione autunnale con il grande jazz che arriva nella nostra città. L'intersezione a sua volta con il Jazz Club di Ferrara, che è una delle sedi del Bologna Jazz Festival, Jazzer, la fondazione che racchiude Ferrara, Bologna e Crossroad Jazz in Emilia Romagna, con una particolarità per il Festival Jazz di Ravenna. Insomma, avremo modo di estendere e presentare diverse programmazioni in ambito jazz. Intanto la partenza con una divagazione che ha le sue attinenze e ne parleremo in Jazz Live con la programmazione di Angelica, che è più vicina ad altri suoni, la piccola rubrica mattutina all'interno del Breakfast Club, ma alcuni aspetti ovviamente sono altrettanto comparabili con jazz, e quindi con la musica di Lou Rawls ci avviciniamo alla pubblicità ricordando l'appuntamento curato da Binario 69, Fondo Comini, al giovedì. Vi aspetto, vi aspettiamo appunto in questo spazio che prolunga ancora un pochettino questa estate 2023. A tra poco, è il momento della nuova stagione, mi pare sia l'ottava, come al solito sbaglierò io coi numeri, ma ne ho quasi certe. L'ottava stagione di Agora, a tra poco. Give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Whoa. Lady love. Your love is cooling like the winter snow. My lady love. With love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love. You know, it's not easy keep love flowing smooth. People are people and they all have their moods. So nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing and all the good times. Got the love I need and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love. Let me tell you that it's not easy. Keep love going smooth. You know people are people. They all have their moves. It's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing. At all the good times and the joy that it brings, my lady love, you've been with me through all of my ups and downs and